Credo che per molti è strano quello che noi facciamo, questo lo sappiamo anche per le domeniche, per chi ci fa visita la domenica, sì, ci possiamo accomodare, però sapete, quello che stiamo facendo qui è semplicemente seguire quello che la Bibbia ci insegna, e c'è questo verso, questo capitolo nei Salmi, capitolo 95, che dice: venite, cantiamo con gioia al Signore. Venite, cantiamo con gioia al Signore. Acclamiamo, che è quello che abbiamo appena fatto, alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi e celebriamolo con salmi. La Bibbia istruisce il popolo di Dio ad essere un popolo che fa baldoria, che fa festa, che è gioioso. E sapete una cosa? Abbiamo ragione di festeggiare. Abbiamo davvero ragione di festeggiare. È Natale. Siete contenti che è Natale? Quanti sono contenti che è Natale? Sì, possiamo fare un applauso che esprime gioia. E già che ci siamo e vi siete riscaldati le mani, vogliamo fare un applauso alla band che è sparita, però ha fatto un lavoro meraviglioso, grazie anche a Nico che è stato qui con noi questi giorni, è venuto apposta da Milano, dalla fredda Milano alla calda Modugno. Io voglio, a conclusione di questo concerto, spendere solo due parole, perché, come ho appena detto, abbiamo ragione di festeggiare. E io credo, è mia convinzione, che nella misura con la quale noi abbiamo consapevolezza del Natale, del valore del Natale, del senso della venuta del Cristo qui su questa terra, tanto più avremo ragione di essere gioiosi e festosi. A volte il Natale lo viviamo come una bella festa e la nostra festa diventa la festività. Cioè noi amiamo festeggiare la festa, ma non siamo consapevoli sempre al 100% che questa festa prevede un festeggiato. Quindi noi non facciamo musica perché ci piace fare musica, non diciamo quello che diciamo perché ci piace dirlo, facciamo le pettole fuori o l'animazione o il minion per la gioia di fare qualcosa, ma noi lo facciamo perché vogliamo celebrare il festeggiato, che sappiamo essere vivo oggi, e il suo nome è Cristo Gesù. Ed è mia convinzione che la comunità cristiana, tutti coloro che si definiscono cristiani, dovrebbe essere il popolo più gioioso e più in festa, perché il nostro Cristo Gesù ha fatto qualcosa di meraviglioso nel venire su questa terra e offrire a ciascuno di noi vita in abbondanza e speranza, non solo per questa vita terrena, ma per l'eternità addirittura. Quello che facciamo qui ogni domenica è proprio fare questo, cantare a Dio, riconoscerlo che Lui è degno di essere lodato. E questo porta gioia nei nostri cuori. Ed è un'altra cosa che facciamo e che anche la Bibbia insegna di fare, è attingere dalla fonte di ogni verità. E io infatti questa sera non voglio dire niente, non voglio aggiungere niente di mio, ma voglio che insieme per i prossimi 10 minuti possiamo attingere dalla fonte di ogni verità che è la Bibbia. A volte perdiamo di vista l'essere cristiano perché perdiamo di vista l'autore, la giusta fonte che deve orientare le nostre vite, cioè la Bibbia, la parola di Dio. E c'è qualcuno nella Bibbia, proprio in questi giorni ho scavato, ho letto diversi Vangeli, e c'è un angelo che ha detto queste stesse mie parole: avete ragione di festeggiare. C'è stato questo angelo che si è presentato ai pastori, no? Lo sappiamo almeno perché abbiamo presente il presepe, no? Ci sono questi pastori, e la Bibbia, il Vangelo, ci spiega che degli angeli apparvero a questi pastori di notte e uno di loro parlò, e questo angelo disse ai pastori queste parole che voglio leggere con voi. Si trovano nel Vangelo di Luca, capitolo 2, dal versetto 10. Pregherei la regia di lasciarlo come verso, così che tutti possiamo guardare e ascoltare non tanto le mie parole, ma le parole che questo angelo ha detto, perché è mia convinzione che se diamo il giusto peso e comprendiamo queste parole, Letteralmente la nostra vita può essere trasformata e rinnovata esattamente come Dio vuole per ciascuno di noi. L'angelo ha detto: non temete, perché io vi porto una buona notizia di una grande gioia. Ora, non so voi, però io credo che basti avere una buona notizia e già quella è motivo di gioia, no? Ma qui l'angelo proprio ci tiene a dire che quello che sta per dire è davvero molto molto gioiosa come cosa. È davvero qualcosa che deve motivare i pastori e noi tutti oggi che leggiamo questi versi insieme ad avere gioia. E aggiunge una grande gioia che tutto il popolo avrà. E questo riferito a tutti coloro che ascoltano questo messaggio, ne comprendono il valore e lo vivono nella loro vita. E l'angelo aggiunge: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Oggi è nato il Salvatore, il motivo per il quale noi possiamo fare festa a Natale. È perché ci è stato dato un Salvatore, e nel momento in cui noi comprendiamo il valore della salvezza che abbiamo in Cristo, la nostra festa va oltre il Natale e riempie l'intero anno e l'intera nostra vita, se comprendiamo che Gesù è venuto per salvarci. C'è un verso in Giovanni, capitolo 3, 16, che dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, Cristo Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. E poi aggiunge il versetto 17, potete andarlo a leggere anche a casa, nelle vostre Bibbie, Giovanni 3, 17 dice: infatti Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Ora io spero che voi comprendiate queste parole. Perché a volte quando pensiamo a Gesù, quando pensiamo a Dio, noi pensiamo a dei giudici che sono lì, che ci puntano il dito, che vogliono far emergere tutti i difetti e trovare ogni cavillo per atterrarci, per dirci: abbiamo sbagliato in questo, in quest'altro. Niente di più sbagliato. Dio manda il suo figlio non per giudicare te e me, ma affinché io e tu possiamo essere salvati. Lui è il Salvatore. Tu hai una speranza, perché nel momento in cui Gesù è nato, la salvezza è nata. Nel momento in cui Gesù è venuto su questa terra, tu hai avuto la possibilità di ottenere libertà. Quella parola soter, perché sappiamo che la Bibbia, il Nuovo Testamento in originario è scritto in greco, e la parola salvatore soter nell'originale e sta a significare liberatore, non solo salvatore. Gesù è venuto per liberarti. Da cosa? Forse ti puoi chiedere questa sera: Mirko, ma io da cosa dovrei essere salvato? Qual è l'emergenza? No, perché se un salvatore viene, viene per un'emergenza. A volte noi pensiamo che dobbiamo essere salvati dalla cattiva politica, no? Quando avremo una buona politica, allora le nostre vite saranno salvate. O pensiamo che saremo salvati nel momento in cui avremo sufficienti soldi e un buon lavoro, una buona posizione. E andiamo e rincorriamo quello, perché quando avremo quello saremo salvati. E potrei andare avanti con una lista enorme. Quando avrò la salute, allora sarò salvo. Quando avrò questo, allora sarò salvo. Quando avrò quell'altro. E la Bibbia dice: questo è tutto un rincorrere il vento. Pensate che belle parole poetiche usa la Bibbia. Rincorrere il vento. Che significa ricorrere il vento? Non lo so, ma è quello che facciamo noi. Quando crediamo che la nostra salvezza sta nelle cose che ci stanno attorno, Gesù ha un piano molto più grande e Lui è venuto per ragioni più grandi di quelle di stabilire una buona politica, un buon governo, di offrire a tutti benessere e soldi, di offrire a tutte le famiglie una stabilità economica. Gesù è venuto per dare salvezza alle anime nostre, per tirarci fuori da quella prigionia che ci rende schiavi, e lo sappiamo bene perché lo sentiamo nel nostro cuore. Il nostro cuore è schiavo di così tante cose. Gesù viene e dice: io sono la risposta. Infatti afferma di sé: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù dice: vuoi giungere al culmine della perfezione? Gesù è venuto per farci giungere al culmine della perfezione, cioè a Dio, al Padre stesso. Non c'è altra via, dice Gesù, se non per mezzo di me. Vieni a me. Gesù è il Salvatore, poi Gesù è il Cristo. Gesù è il Cristo. E io credo che queste parole le abbiamo sentite sempre, da quando eravamo piccoli, no? Salvatore, Cristo, il Signore. Però forse non ci siamo chiesti che cosa significano realmente. Il Cristo, l'originale Christos, è quello che nel Vecchio Testamento, in tutta la Bibbia, viene parlato continuamente, il Messia, l'unto di Dio, il prescelto, quell'unica persona che su questa terra avrebbe vissuto una vita perfetta, adempiendo tutti i comandamenti di Dio ed essendo la risposta ad ogni cosa che Dio aveva anticipata. Dio manda Gesù affinché lui potesse adempiere tutte le cose. Quella vita che tu non riesci a vivere, quella vita che io non riesco a vivere, perché siamo schiavi del peccato, Gesù l'ha vissuta per noi. E adesso in Lui, nel Messia, noi abbiamo speranza. Perché Gesù non ci chiede di vivere quella vita, ma ci chiede di venire a Lui. E infatti è l'appello che fa. Gesù dice, venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, e io vi darò riposo. Non è un riposo fisico, è un riposo dell'anima. È un riposo spirituale che tu non puoi trovare da nessun'altra parte, solo Gesù può offrire. Questo è il cristianesimo. Essere cristiani significa mettere Cristo al centro. Riconoscere che Lui è il Messia, Lui è l'unto e da Lui dipendiamo se vogliamo una vita piena. In un altro verso, scusate se ne cito così tanti, però amo la Bibbia perché è una rivelazione continua di verità che ha cambiato la mia vita e ha il potere di cambiare la tua. In Giovanni 10:10 Gesù dice, voi avete un nemico e il vostro nemico viene per rubare, ammazzare e distruggere. E fa riferimento proprio al diavolo, lui è il tuo nemico e lui sta venendo per ammazzare, rubare, distruggere. Distruggere la tua serenità. Ammazzarti dentro, perché puoi essere ben vivo fuori e respirare in questo momento, ma tu sai che sei morto dentro. Però poi aggiunge Gesù e dice, io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita in abbondanza. Questo è quello che Gesù è venuto a fare. Ci è venuto ad offrire salvezza, liberazione, vita in abbondanza. E questa sera io credo che sei nel posto giusto, al momento giusto, per fare una decisione nella tua vita, che non è quella di entrare a far parte di un'altra religione, di un'altra istituzione fondata da uomini, ma perché noi non esistiamo per questo. Noi esistiamo per annunciare quella buona notizia, l'Evangelo, e per offrire questa opportunità che noi abbiamo vissuto a quante più persone possibile, a vivere il vero cristianesimo e riconoscere chi Cristo è, che cosa Lui ha fatto. Il motivo per il quale noi festeggiamo il Natale non è perché 2015 anni fa circa è nato un bambino, ma perché quel bambino è cresciuto, è diventato un uomo e ha fatto tutto quello che ha fatto nella perfezione con cui l'ha fatta, tra cui morire per i nostri peccati, per le nostre colpe e prendere su di sé il castigo che era sulle nostre vite, e poi è risorto per vincere sulla morte, sul giudizio e dare a noi vittoria e vita piena. Ha fatto tutto questo perché ti ama, perché mi ama e mi conosce personalmente. Quando noi festeggiamo il Natale, quello che l'angelo sta dicendo, è ancora lì il verso, bene, quello che l'angelo sta dicendo è la gioia. La buona notizia non è che è nato un bambino, è che questo bambino è il Salvatore, è che questo bambino è il Cristo, è che questo bambino è il Signore. Il Signore è qualcosa di fenomenale. Io vorrei spendere ore per spiegare che cosa significano queste parole, però non voglio rubarvi tempo e quindi ho quasi finito. Però il Signore non è il Signore, no? Come ci salutiamo noi, il Signore, la Signora. Questo è il Signore, dal termine greco originale, Kyrios, ha uno spessore, una potenza incredibile. L'angelo sta affermando che è appena nato colui che ha autorità su ogni cosa. È appena nato un re, non un re qualsiasi, il re dei re. Qualcuno che ha autorità su ciò che nessun altro ha autorità. i politici, i re di allora credevano di essere degli dei sulla terra. Gesù è venuto per dimostrare che lui era Dio realmente, perché lui ha preso autorità su potenze demoniache, su malattie, su situazioni incredibilmente devastanti. Ed è quello che lui ha ancora autorità di fare oggi. Capite perché è una bella notizia? Capite perché c'è motivo di gioire, di festeggiare, di cantare, di danzare, di riempire le strade di gioia? Perché abbiamo una speranza meravigliosa e questa è a tua disposizione, a mia disposizione. Cosa dobbiamo fare? Forse la tua domanda questa sera è: come posso essere salvato? Cosa devo fare? La religione a volte ci invita a fare così tante cose. Quello che Gesù vuole, l'unica cosa che Lui vuole, è che noi apriamo il nostro cuore a Lui e permettiamo a Lui di entrare e di conoscerlo per chi è Lui realmente, cominciare a parlare con Lui. Questa è la preghiera. Non sono recite fatte, ma sono parole sincere che parlano dal tuo cuore, che partono dal tuo cuore e invitano Gesù ad entrare in ogni tua situazione. Se questa sera tu riconosci che c'è una possibilità di salvezza, c'è un adempitore di tutta la volontà di Dio che è Cristo Gesù, e riconosci che Lui è in autorità e dai a Lui la possibilità di intervenire, di agire nella tua vita, io ti assicuro che non sarà più la stessa. Gesù cambia, trasforma, e quello per cui è venuto a fare 2000 anni fa lo continua a fare oggi. E questa è la storia più meravigliosa che in breve ho potuto raccontarti, ma ti invito a continuare a leggere la Bibbia, a continuare a scavare, a conoscere di più Gesù, perché questa buona notizia è anche molto, ma molto importante, è una questione di vita o di morte, per te e per la tua eternità. Gesù ti offre la mano, ti stende la mano, afferrala. Questo è il mio invito, questo è il mio incoraggiamento, non avere timore. Rivolgiti a Lui, liberati di ogni pensiero e di ogni tradizione che magari ha infangato quell'immagine pura di chi Gesù è, e torna alla fonte per eccellenza, la parola di Dio, torna a quello che Dio dice di sé. Non venire da me, non andare a un altro religioso, io non sono religioso, ma vai alla Bibbia, vai alla fonte, andiamoci insieme, facciamolo come l'abbiamo fatto questa sera. E domenica prossima avremo una grande occasione, avremo anche Nicola Legrottaglie, che è un calciatore, e lui ha vissuto questa liberazione, questa vittoria nella sua vita. È una testimonianza reale, perché Gesù fa cose reali. Un uomo che ha tutta la ricchezza, ha tutta la fama, ha raggiunto ogni traguardo nella sua vita, e proprio nel mezzo di tutto quello ha dovuto ammettere: io non ho niente, perché il mio cuore è vuoto, perché il mio cuore è arido. Io ho bisogno di vita, e Nicola si è inginocchiato, ha chiesto a Gesù il suo intervento, e Gesù l'ha fatto. Io voglio dare anche a te, questa sera, in questo momento, perché Gesù è qui, è vivo, è presente, è ovunque, ci ascolta, e io voglio dare a ciascuno di noi l'occasione di fare una scelta. Io vorrei pregare per quanti questa sera dicono: io ho bisogno di salvezza, io ho bisogno di quel Signore, di quell'autorità nella mia vita. Non voglio più vivere nella ribellione, nell'autonomia. Voglio dipendere da Lui e voglio comprendere che cosa significa avere quella vita piena che hai citato tu nel verso di Giovanni 10:10. Se tu sei questa persona, io voglio guidarti in una preghiera. Però prima di farlo vorrei che tutti noi chiudessimo i nostri occhi, abbassassimo il nostro capo in segno di rispetto. Vorrei vedere quante persone vogliono accodarsi a me in questa preghiera. Quindi se tu sei quella persona che questa sera dici: sì, io ho bisogno di Gesù, e lo vuoi ammettere, allora io ti voglio chiedere di semplicemente alzare la tua mano, in modo tale che io la possa vedere, ma non lo fai per me. È un segno di coraggio, un segno di arresa che fai davanti a Dio. Grazie, vedo già delle mani che si alzano, grazie. C'è qualcun altro? Chi le alzate le può abbassare. Se c'è qualcun altro, dice: io, grazie, che bello questo coraggio, questa libertà, grazie, ti vedo. Potete abbassarle, c'è ancora qualcuno? Vorrei vedere semplicemente quanti in questo momento stanno facendo una decisione, grazie. Grazie, grazie, grazie, che bello, tante mani dicono semplicemente io voglio Gesù, ed è la cosa più bella, grazie signora, grazie, che bello. Allora vorrei invitare tutte queste persone, ti vedo al centro, tutte queste persone che hanno alzato la loro mano, c'è ancora qualcuno che dice io voglio Gesù, grazie, non una religiosità, io voglio Gesù, grazie, che bello. Alla spicciolata però tantissimi stiamo alzando la mano ed è bellissimo quello che stai facendo, perché stai ammettendo con umiltà il tuo bisogno di Cristo. Se hai alzato la mano in questo momento, io vorrei che tu ripetessi questa preghiera ad alta voce con me, anzi lo faremo tutti come chiesa, ci sono tanti credenti qui e vorrei invitare tutti i credenti della chiesa a ripetere con me, ad accodarci a queste persone in modo tale che loro possano sentirsi sostenuti nel fare questa preghiera. Chiudiamo i nostri occhi, abbassiamo il nostro capo e ripetete insieme: Signore Gesù, ti invito nel mio cuore, ti chiedo di darmi salvezza, ti chiedo di liberarmi, ti chiedo di darmi vita piena. Grazie perché sei venuto, grazie per quello che tu hai fatto. E grazie perché tu perdoni i miei peccati. Grazie Gesù, voglio seguirti. Amen. Amen. Padre, io ti ringrazio per tutte queste mani alzate. Amen. Facciamolo più forte questo applauso. E Gesù, ti ringrazio perché ci ami così tanto. Grazie per questa serata di festa e per come proseguiremo insieme nel cammino, conoscendoti meglio attraverso la tua parola. E io prego che tutte queste persone che si sono unite a noi oggi possano continuare ad essere coraggiosi e fare quei passi verso di te per avere e ottenere quella vita piena, quella pace piena che solo tu sai dare. Ti amiamo Gesù. Amen. Amen.